Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, vorrei sapere cosa ne pensa lei degli interventi del governo per venire in soccorso alle banche in difficoltà. Io vorrei sensibilizzare il governo sul fatto che ci sono centinaia di migliaia di famiglie che hanno in corso un'esecuzione immobiliare, promossa dalle banche per mutui non pagati a causa della crisi ben nota. Famiglie che quindi rischiano di perdere la propria casa. Perché il governo aiuta le banche e non le famiglie? Io sostengo che ci sia una grossa disparità di trattamento, che la stampa o i media dovrebbero evidenziare. Come minimo il governo dovrebbe fare una moratoria sulle esecuzioni immobiliari in corso e imporre anche alle banche di adottare lo stesso criterio per chi si trova in difficoltà. Anch'io sono in queste condizioni. Le posso solo dire che forse non c'è cosa più umiliante per un padre di famiglia. Ad un'udienza che si è svolta pochi giorni fa in un piccolo tribunale di Velletri, c'erano in una sola mattina 140 esecuzioni immobiliari. Provi a moltiplicare per tutti i tribunali d'Italia e poi faccia una riflessione sull'entità e la gravità del problema. Sandro, da Roma. Caro Sandro, sicuramente sono molte le famiglie in questi mesi di fronte alla crisi economica e alla perdita di posti di lavoro. E quindi appare del tutto doveroso che lo Stato e le forme private di assistenza e solidarietà intervengano per diminuire i disagi e aiutare a superare questi momenti difficili. In questa prospettiva va visto, per esempio, l'impegno che le banche hanno assunto per garantire una moratoria fino a un anno nel pagamento dei mutui nel caso in cui il titolare abbia perso il posto di lavoro. Detto questo, e venendo nel merito alla sua proposta di sospendere le esecuzioni immobiliari, mi sembra si debbano sottolineare due elementi. Da una parte, il fatto che i mutui sono contratti tra privati e compito dello Stato dovrebbe essere quello di garantire la validità dei contratti validamente sottoscritti. Dall'altra, che il concedere il possesso di un bene senza pagarne il prezzo si tradurrebbe in un beneficio per alcuni e potrebbe provocare un blocco dei nuovi mutui e quindi del mercato immobiliare. Proprio in un momento in cui ci sarebbe invece bisogno di nuovi investimenti, magari con facilitazioni al possesso della casa. Intervenire per aiutare chi ha maggiori difficoltà è quindi non solo utile, ma indispensabile, ma chiedendo a tutti il rispetto delle regole e delle leggi. Scrivo a proposito della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020 e agli Europei di calcio del 2016. Ma l'Italia non cambierà mai? Italia 90 dovrebbe aver insegnato qualcosa. Sono passati 20 anni, ma le strade e i ponti che finiscono in mezzo ad una campagna perché dovevamo far fare qualcosa a qualcuno sono ancora lì. Ma la gente non se lo ricorda. E che facciamo con l'Expo? Quanto ci costerà? Quanto clientelismo continuerà ad alimentare? Ma che ce ne facciamo di questi eventi super stra mega costosi? Venderemo ai soliti amici i pezzi del demanio. Fausto. Gentile direttore, il mafioso ergastolano è gravemente depresso, ha il diabete e soffre di cuore. Per queste ragioni, Salvatore Vitale, condannato all'ergastolo per il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, poi strangolato e sciolto nell'acido dagli uomini di Giovanni Brusca, è stato scarcerato e messo agli arresti domiciliari. La detenzione è incompatibile con il suo stato clinico di salute. Questa bella, stupenda decisione l'ha presa il magistrato di sorveglianza del Tribunale di Pavia. Essendo ogni commento inutile, la mia pubblica richiesta è questa. Si è invitato in TV questo signor magistrato, mostri la sua faccia e informi gli italiani tutti su questa porcheria indicibile e inverosimile. Di fronte a simili provvedimenti, il ministro della giustizia dovrebbe sanzionare pesantemente questo individuo, licenziarlo e privarlo anche della pensione. Marco. Sono estremamente indignato dalle novità circa le intercettazioni. Non capisco perché da parte dei giornali non si sono levati scudi contro questa legge che ha il sapore di una censura sulla conoscenza di ruberie di ogni genere e grado. Al male che si è fatto, si vuol porre rimedio col sistema più facile, quello di non far conoscere e non far pensare. Occhio che non vede, cuore che non sente. Tutto questo non è giusto e richiede speciale attenzione. Massimo, Arezzo. Perché la Merkel è tanto criticata? È l'unica che si è mossa in difesa della moneta, vietando le vendite allo scoperto. L'euro è la moneta dei tedeschi, ma anche la mia. Certo, all'inizio di questa crisi ha mostrato incertezza, ma ora è anche l'unica che è decisamente partita all'attacco della speculazione. Si poteva concertare tale decisione? Sì, ma i tempi della politica non sono quelli della speculazione. Questi ultimi sono molto più veloci. In politica, come in natura, il vuoto è aborrito e il vuoto è stato occupato dalla Merkel. Ora io, cittadino italiano, dico che ho finalmente un leader politico che difende la mia moneta. Grazie, signora Merkel. Angela Merkel ha avuto il coraggio di fare quello che ogni vero leader doveva fare da un pezzo: mettere fuori legge le operazioni finanziarie allo scoperto, cioè la pratica di vendere titoli che non si possiedono. Operazioni che sono particolarmente abiette, vili e dannose per l'economia reale, cioè per i 7 miliardi di umani che calcano questo sciagurato pianeta. Eppure i suoi colleghi europei si sono affrettati a prendere le distanze da lei, perché il mercato aveva reagito male. Certo che reagisce male, come i rapinatori che si mettono a sparare se scoperti. È in corso una guerra fratricida tra noi occidentali. Le economie speculative, USA e Gran Bretagna, sono in fallimento totale rispetto alle economie sostanziali, Europa e Giappone, e reagiscono con le uniche azioni disperate che sanno fare: speculare contro i loro competitori invece di mettersi a digiuno. E la Cina, che possiede metà del debito USA, non può che reggere il moccolo agli speculatori. Ma se la parola economia significasse ancora qualcosa, e se il mercato avesse davvero la M maiuscola, sotto scacco sarebbero la sterlina e il dollaro, altro che l'euro. Io credo che ci sia un bisogno vitale di sostenere Angela Merkel con tutta la forza possibile, proprio dal basso, vista la nullità dei nostri leader, mobilitando i cittadini europei della rete. Se qualcuno ha agganci di qualsiasi genere, credo che dovrebbe spendersi al massimo. Io ci sto provando, ma bisogna farlo oggi. Domani saremo già meno efficaci. Leopoldo. Scrivo a proposito della proposta del governo di spostare le finestre di uscita per le pensioni di anzianità e vecchiaia. Per chi ha un lavoro, lo slittamento di 6 mesi o di 1 anno non cambia molto ai fini del reddito. Anzi, per molti potrebbe essere positivo. Non è la stessa cosa per chi invece si trova in cassa integrazione da 5 anni e percepisce ormai 650 euro al mese, con 3 figli in età scolastica a carico, e non vede l'ora di maturare i fatidici 59 anni, tirandoli con i denti, avendo tra l'altro maturato 38,5 anni di contributi per percepire qualche soldo in più a fine mese e togliere il disturbo. Lo slittamento dovrebbe essere applicato solo a chi ha un lavoro, non a quelli che il lavoro l'hanno perso da tempo e sono in cassa integrazione. I parlamentari tremano al pensiero di perdere 700-800 euro al mese. A me, che attualmente sto tirando a campare con 650 euro al mese, verrebbero tolti, in caso di slittamento della pensione, circa 1.200 euro al mese. Lorenzo. Con quello che guadagnano e con quello che rubano, le aspettative di vita dei nostri politici sono quadruplicate. I soldi per curarsi dei migliori specialisti sulla piazza li hanno accumulati e continuano ad accumularli. E ora pensano anche ad attaccare la sanità, quando un presidente americano ha fatto di tutto per garantire un minimo di sanità pubblica ai suoi cittadini. Si tolgono il 5% e se ne vantano. Vergogna. Pensioni milionarie, stipendi stratosferici per loro e la cricca. La cricca è vasta, va dai dirigenti statali ai manager di importanti società. Però loro sono intoccabili, meglio andare a prendere i soldi ai dipendenti. I lavoratori dipendenti sono gli unici che pagano le tasse e che non hanno più la sicurezza di un lavoro, grazie all'incapacità e al menefreghismo di tutta la classe politica che ha fatto solo gli affari propri senza occuparsi della cittadinanza che li ha eletti. Comincino a dimezzarsi le loro pensioni e a cancellare il diritto di averle dopo 2 anni e mezzo di legislatura. Vogliono allungare la nostra età pensionabile, vogliono chiudere le finestre per continuare a pagarsi i loro privilegi, le loro pensioni, i loro stipendi. Mi sembra di vivere in un film dell'orrore. Spero, ormai disperatamente, che tutti si sveglino e reagiscano a questo inaccettabile e schifoso teatrino che ci ha portato sull'orlo del baratro. Emiliana, Firenze. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.